stands upon an open hill. Her hair is blown, her lips are chilled. She stands for all the world to see, a cherished one, a memory. She smiles as if she knows I'm there. I hold her hand, I touch her hair. I think of all the good she brought, a helping hand, a loving thought. She turns and looks towards the sky. I see her laugh, I see her cry. I call her name, she doesn't hear. She turns away, I feel a tear. I know I'm left with dismal gloom. I know I shall be with her soon. Sempre con Rock Legends su Radio RCS, l'onda veronese, le frequenze le facciamo dire come tradizione ai nostri ospiti, in questo caso gli Oneira. Allora, sono 98.6 per la bassa veronese, zone della Lessinia, 101.5 per Verona città e rimanente provincia e 91.5 per la zona lago. Radio RCS lo si può ascoltare anche attraverso lo streaming dal sito www.radiorcs.it. Continuiamo con il prog degli anni 70 e con il brano appena ascoltato dal titolo Memory e contenuto nel disco dei Beggars Opera dal titolo Act 1 del 1970. Formazione scozzese tecnicamente preparata che attingeva almeno nei primi dischi alla musica classica rivista in chiave fortemente rock. Che ne pensate? Molto bravi tecnicamente, è una band molto valida. Credo che alcuni loro album abbiano lasciato un'impronta nella storia del rock progressive. In particolare la prima volta che ho sentito l'album Lifeline sono rimasto impressionato dalla voce del cantante, che non dimenticherò mai, ma anche la loro musica, insomma, è stupenda. Natural Prestige è il titolo del vostro disco. Qual è il significato che avete voluto dare a queste parole? Ma allora, Natural Prestige significa, ha diversi significati, può essere letto sotto diverse chiavi, però Filippo forse può spiegarci meglio. Certo. Diciamo che Natural Prestige, perché nel concept il filo conduttore è la natura col suo prestigio. Il nome era accattivante e richiamava la volontà di un suono prestigioso. Rimanendo nello stesso anno, passiamo ai King Crimson. Dopo il fortunato album di esordio, la band si appresta a registrare il nuovo album, in cui avvengono anche mutamenti di organico che caratterizzano la formazione di Robert Fripp per il resto della loro carriera. Da In the Wake of Poseidon ci sentiamo la title track. We'll be right back. King Crimson sono tra le band più importanti della scena progressiva in virtù di un sound unico e in continuo mutamento. Che ne pensate? Beh, sono una band gigantesca anche per la storia che rappresentano e i continui cambi di line-up e tutto. Però questo disco qua è stato criticato quando uscì. Invece a me piace moltissimo, certo, perché ha un'atmosfera molto dolce e Lake è incredibile. Poi in questo brano qua la classe non è acqua. Inattaccabile. Vostri ascolti musicali, quali sono e quanto influenzano la composizione dei brani? Parto io per dire. Sì, allora, sì. Vai, Eric. Che ovviamente la musica, il musicista è fatto di ascolto come prima cosa, perciò quello che ascolta poi sputa fuori, crea. E io ho avuto i grandi momenti, le grandi passioni. Sono passato anche dal progressive. Ho avuto il momento, per esempio, il Banco del Mutuo Soccorso rimane ancora uno dei miei gruppi preferiti. E adesso mi trovo ad ascoltare jazz e cose diverse, però ogni momento mi ha dato delle sue qualità, diciamo. Filippos? Sì, io diciamo che da bambino che ascoltavo il rock progressivo e praticamente gruppi come Rush, Journey, Def Leppard, Rick Springfield, Styx, Alan Holdsworth, ma in particolare io diciamo che sono cresciuto con i Rush e mi ricordo sulla mia borsa c'era scritto Rush and Roll, quindi e poi nella mia cameretta c'erano tutti i poster dei Rush, ascoltavo dal mattino fino alla sera questa band, ero proprio ossessionato, però insomma poi con il passare degli anni insomma sicuramente ho avuto un una cosa più sentivo tanti voglia altri di gruppi cambiare, insomma, ecco, sì, insomma sì, sì, di meglio insomma. Sì, sì, sì. La seconda parte si chiude con i Rare Bird, band inglese dalla inedita lineup con due tastieristi e nota al grande pubblico per un brano che salì rapidamente le classifiche, tratto dal primo disco Rare Bird del 1969 e dal titolo Sympathy. Nella terza e quarta parte ascolteremo sei brani del disco degli On Air dal titolo Natural Prestige. Now when you climb into your bed tonight, and when your lock and bolt the door. Just think of those out in the cold and dark, 'cause there's not enough love to go around. And sympathy is what we need, my friend. And sympathy is what we need. And sympathy is what we need, my friend, 'cause there's not enough love to go around. No, there's not enough love to go around. Now half the world hates the other half, and half the world has all the food, and half the world lies down and quietly starves, 'cause there's not enough love to go around. And sympathy is what we need, my friend. And sympathy is what we need. And sympathy is what we need, my friend, 'cause there's not enough love to go around.